Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Oggi ci occupiamo di sicurezza stradale con gli ultimi dati sugli incidenti provocati dai cosiddetti pirati della strada e su quelli causati dall'impatto contro gli alberi, quindi un aggiornamento sulla situazione nei porti a 5 settimane dall'entrata in vigore dell'obbligo della pesatura dei container all'imbarco, spazio poi al decreto sul distacco temporaneo dei lavoratori all'estero e un focus sull'andamento del mercato di rimorchi e semirimorchi. In apertura partiamo con l'attualità. La scorsa settimana al Ministero dei Trasporti si è svolto un nuovo incontro per fare il punto sull'applicazione nei porti dell'obbligo di pesatura dei container. A 5 settimane dall'entrata in vigore della norma, in particolare in alcuni scali, i disagi a carico degli autotrasportatori restano pesanti. Di questo hanno parlato nel corso dell'incontro al Ministero i rappresentanti delle associazioni ed è emerso che a settembre la questione verrà affrontata a livello internazionale, ad un vertice al quale parteciperanno anche ufficiali della nostra capitaneria di porto. È presumibile che alla luce delle difficoltà emerse in questa prima fase dell'applicazione della norma, in quella sede verranno varati nuovi provvedimenti per superare le criticità. All'incontro a Roma era presente Gianni Satini, vicepresidente di Conftrasporto, che ci racconta quello che accade ora nei nostri porti. I terminalisti hanno detto che loro vogliono che il contenitore arrivi pesato, proprio per evitare di dover sostenere questo tipo di servizio. Noi trasportatori ci siamo concentrati quindi sul problema della pesatura, quindi abbiamo avuto trasportatori che si sono organizzati comprandosi una pesa, trasportatori che si sono organizzati creando una rete di pese. Non sapevamo e non abbiamo avuto occasione di saperlo se non nella verifica operativa concreta della nostra attività, che avere il dato della pesatura in realtà non era sufficiente, perché bisognava che questo dato di pesatura arrivasse al terminal e quindi noi possiamo accedere al terminal soltanto quando il dato della pesatura è giunto al terminal, anche se la VGM, questo dato di pesatura, è già stato eseguito. Significa quindi che le operazioni dipendono da una comunicazione che non spetta necessariamente agli autotrasportatori e senza quella tutto il processo viene rallentato con aggravi in termini di denaro e di tempo. Ecco le proposte dell'autotrasporto per superare ritardi, incomprensioni e difficoltà tecniche. Noi vorremmo poter entrare in terminal a prescindere dal fatto che il terminal abbia ricevuto o meno un VGM. Ma vorremmo entrare in terminal perché comunque la pesatura l'abbiamo fatta e i ritardi dovuti alla negligenza da parte di alcuni soggetti ad inserire in termini utili questo dato al terminal non abbia conseguenze sull'autotrasportatore. E altra cosa quindi che noi chiediamo è che vengano autorizzate le pesature all'interno del terminal fatte con i mezzi che scaricano, quindi queste gru che scaricano il container dal mezzo, dal veicolo. E ora torniamo a parlare di sicurezza stradale. In primo piano i dati di ASAPS, l'Associazione Amici della Polizia Stradale, sulla pirateria nei primi 3 mesi dall'entrata in vigore della legge sull'omicidio stradale, cioè a partire dal 25 marzo scorso, e si tratta di numeri poco confortanti. Tra aprile, maggio e giugno gli episodi gravi di pirateria stradale sono stati 294 contro i 245 dello stesso trimestre del 2014, cioè il 20% in più. I feriti sono stati 366 più 16,9%. Nel secondo trimestre 2016 le persone uccise da pirati della strada sono state 33, esattamente lo stesso numero del 2015. Un'altra ricerca di ASAPS ha invece portato all'attenzione un fenomeno che si tende a sottovalutare quantomeno nella percezione collettiva, cioè gli incidenti provocati dall'impatto contro gli alberi. Nel corso del 2015, in seguito a questa dinamica, hanno perso la vita 127 persone. Altre 255 hanno riportato ferite. Veneto, Lombardia e Toscana sono le regioni dove si è registrata l'incidenza più alta di questo tipo di incidente. Lorenzo Borselli ha curato lo studio per conto di ASAPS e la rivista Il Centauro. Lo abbiamo intervistato. Una consistente parte di incidenti che la statistica classifica come impatti contro ostacoli fissi sono in realtà impatti contro alberi. Siccome il dato ci dice che 127 persone sono morte contro alberi nel corso del 2015, Noi parliamo del 3,8% della sinistrosità letale del nostro paese. Riteniamo che sia uno studio che dovrebbe semplicemente far riflettere, perché vede, il problema nostro in Italia è che i dati che arrivano dalla sinistrosità non sono poi studiati né diversificati. Ci sono norme di legge che disciplinano la messa a dimora di piante ai margini delle carreggiate, ma in molti casi si tratta di alberi che da decenni, se non da secoli, tracciano i bordi delle nostre strade. Ascoltiamo ancora Borselli. Le norme di attuazione al codice della strada dicono che, ad esempio, un privato non può piantare un albero a una certa distanza dalla strada, da un'arteria, da una strada. Ma soprattutto, quello che ci sembra opportuno, siccome noi non siamo dei taglialegna, chiariamolo subito, noi siamo dei professionisti della sicurezza stradale e diciamo, esiste una legge che impedisce la presenza di alberi attorno alle arterie, bene, se non possiamo tagliare gli alberi, anche per un fatto di ecologia o di ambientalismo, perlomeno mettiamolo in sicurezza. Se noi prendiamo alcune strade, ad esempio della Toscana, della Riviera Toscana, queste strade sono strade killer. E allora cosa si può fare per provare a rendere più sicure le strade con queste caratteristiche? La facoltà di Pisa, l'ingegneria di Pisa, ci ha fatto avere un interessantissimo studio che stiamo valutando. Sarebbe sufficiente proteggere gli alberi con delle lame di guardrail. Ora, il guardrail ha delle implicazioni letali, ad esempio, in altri tipi di incidenti, come per i ciclisti e i motociclisti, però esistono delle lame, cioè delle barriere di contenimento, in grado di proteggere sia l'albero, ma soprattutto il veicolo che vi potrebbe andare a sbattere, senza che questo poi venga reindirizzato al centro della carreggiata, perché questo poi è il problema. Ogni incidente ha una causa e un effetto. Voltiamo pagina. Il cosiddetto dumping sociale inquina il mercato dell'autotrasporto e distorce le regole della libera concorrenza. Ci sono cioè aziende che possono applicare tariffe migliori al committente perché hanno oneri salariali e contributivi decisamente più convenienti derivanti dall'applicazione di contratti di lavoro diversi rispetto a quelli vigenti nel nostro paese. Da poco sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un decreto del governo che pone regole più stringenti in materia di distacco temporaneo dei lavoratori all'estero. Cosa cambia? Lo abbiamo chiesto a Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Le imprese che utilizzano personale distaccato in Italia, nel caso specifico, sono sottoposte ad una serie di adempimenti e alla necessità di dover dimostrare che effettivamente siamo di fronte ad un, per esempio, situazione di un lavoratore, di un autista che è effettivamente distaccato, che ha le condizioni di lavoro e di occupazione, diciamo, compatibili con quelle del paese ospitante, in questo caso dell'Italia, che vengono rispettati i periodi di lavoro, i periodi di riposo. Questa cosa, diciamo, deve essere dimostrata attraverso una documentazione, cosa che fino ad oggi ovviamente non avveniva. Inoltre, per esempio, vengono colpite in maniera molto seria, anzi sono vietate le attività delle cosiddette letterbox, cioè delle società fantasma che fanno solamente attività di mera gestione e amministrazione del personale dipendente, cioè devono essere delle imprese effettivamente di trasporto che hanno eventualmente questa esigenza di distaccare il personale. Il rispetto di queste misure e quindi l'efficacia del provvedimento dipendono necessariamente da come verrà svolta l'attività di controllo sul territorio. Adesso, diciamo, si tratta di vedere anche attraverso i successivi atti amministrativi come e in quale misura e con quali numeri, diciamo, lo Stato sarà presente per fare rispettare quelle stesse norme che lo Stato si è dato, diciamo. Io credo che per l'autotrasporto la problematica del distacco andrebbe affrontata in maniera specifica, perché è di tutta evidenza la differenza di un autista che sta su un camion e che per un giorno o una settimana deve stare all'estero rispetto all'attività che so io di una impresa edile che magari deve aprire un cantiere in un altro paese, insomma. Da sempre monitoriamo l'andamento del mercato dei veicoli per trovare segnali incoraggianti dopo gli anni difficili della crisi. Un settore particolare è quello di rimorchi e semirimorchi. Le vendite seguono un andamento altalenante. Ci spiega perché Sandro Mantella di UNRAE, l'Unione Nazionale dei Rappresentanti Autoveicoli Esteri. mercato schizofrenico dovuto al termine ultimo del mese di marzo, era l'ultima data utile per poter immatricolare i veicoli per accedere ai contributi intermodali. E quindi c'è questo picco di immatricolazione nel mese di marzo e poi si rallentava e poi riprende. Quindi il mercato dei seminuovi comunque in ogni caso è sempre stato poco costante, anche se in continua crescita negli ultimi 2 anni. Prevediamo che chiude con 35,5% di incremento, quindi con 7.600 unità contro le 5.600 dello stesso periodo dell'anno scorso. È una buona crescita, un'ottima crescita. Questa puntata di Hashtag Autotrasporti finisce qui. Noi ci risentiamo lunedì, il giorno di Ferragosto. Grazie per l'attenzione da Andrea Ferro. Buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.